la Sardaigne, ici la station, l'aile talonnaire de la ville de Sassari. Attends, chi è? Non capirai già. Ah. Con chi ce l'hai? Sto facendo chiamata in francese. Ah, devo la France. Sì, è bello. L'hanno entrato lì? No. Oh, yeah. Ma non è un attimino che vado al cucchiacca piccolino a cambiare la colorina. Eia, vai, vai. Lo crei. Eia. Ma se disturba così, oh. Oh già, com'è così? Va bene. Non cambia niente, cioè. Così è spento. E così è acceso. No. Niente. No. No, perlomeno, sono tutti e due furti, ma non cambiano. Almeno che, perché siamo vicini. Ma non è il segnale, no? La modulazione. Ehi, staccio da via. Che strano, eh? Buh. Forte, però rifallo, però ci metto bene l'orecchio, vediamo un po', ma non, io non ho notato nessuna differenza. Allora, vedi un po', da così a così, non cambia niente. Sì, cambia lui, cambia. Adesso l'ho notato bene. Così è spento, così è acceso. Praticamente ci deve essere il processore, così è. C'è il processore inserito e senza? Assolutamente no. Pedale inserito, pedale disinserito. Processore inserito. Sì, già cambia, sì. Ho notato adesso. Ci ho messo bene l'orecchio. Guarda se sta peggiorando o comunque se sta peggiorando in questo modo, metti i potenziometri. No, non sta peggiorando. Perché non ho le cuffie, non posso adesso mettere le cuffie con il ricevitore. Ma lo sai che mi sono svegliato adesso? Adesso mi sono addormentato perché stanotte non ho dormito nulla. Adesso mi sono riuscito ad andare là. Ahia, la gnagna, ti desi poco già. E avevo anche mal di testa, immaginati. Ho preso Lucchi stanotte, non mi ha fatto nulla. Manco per le scatole, è passato. Dolori, c'avevo i dolori. Ma dolori, ma... Signore, ti ho spiegato qual era il mio problema. Io ne bilavo tre me. Te lo può confermare qualcuno quando lavoravamo da un amico in comune. Tre ne bilavo. Lavorando in un'azienda in Lucchi. Ehi, allora, ma io si tratta di una questione diversa, cioè non sono consumato, capito? Che lui può andare bene se uno ha delle artrosi, però lo so che non si è consumata la cartilagine. Se è consumata la cartilagine, ovvero da aiutare, bisogna operare. Sì, ma stiamo sempre parlando di dolori, ho già, di dolori che purtroppo ho cercato una soluzione almeno per il dolore, non per il problema, ma per il dolore, perché il problema ci rimane, capito? Io devo tragitto, quasi da voi te lo dico, uia, per carità, già mi alzavo a dolori, per tre ernie e per tutto quello che c'ho nella schiena, capito? E il problema c'è, ci rimane. Comunque quello l'ho contattato, non mi ha manco rifuso. Vero. Strano. Le ho scritto tutto, le ho scritto quello che avevo, i dolori che avevo, tutto quanto, che ero disposto a fare questa terapia, provare. Ma non mi ha risposto. E vabbè. Già, troveremo una soluzione. Adesso faccio la visita. Io l'altra volta, per passarmi i dolori, mi sono operato. E mi è passato tutto, una volta operato ti tieni i dolori un po' di giorni dopo l'operazione, però poi ti passano completamente. Lascia un po' di bianco così se deve entrare qualcuno. Così è, già, così è. E se no fosse la morfina, voglio vedere se mi basta. Cosa fai? La morfina. Ah, ma neanche muscoli e Voltaren ti fanno niente, mi sembra strano. Oh, c'è il muscolo e Voltaren, non ha fatto l'iniezione, non ha fatto nulla. Poi non agisce l'ottore che dovrebbe, capito? Se ti fa qualcosa, ti fa qualcosa nel momento. Tu fai l'odore e dopo di nuovo ti torna. cos'ha, poi se c'hai l'osso consumato, tipo osteoporosi c'hai tu, ed è bruttissima perché cartilagine non ce n'è più, e hai iniziato a toccare osso con osso, però so che adesso a questi interventi, fanno degli interventi che mettono della specie di una cartilagine artificiale, non so, oppure ti allontanano con dei ferri i dischi in modo che non freghino uno con l'altro, perché poi è pericolosissimo quando si consuma parecchio. No, a me mi hanno fatto già, da una parte ce l'ho già, la protesi, hanno tagliato la testa del femore e hanno messo la protesi, ci ho messo un 3 mesi, io stavo già camminando quasi bene, da un po' zoppicavo, non ero molto sicuro, perché quando fanno quell'operazione ti tagliano il muscolo per arrivare all'osso e quindi il muscolo si deve riattivare, devi fare fisioterapia, camminare, fare scale, capito? Di modo che si riattivi bene. Ma certo, ui, purtroppo, cosa ci vuoi fare? È dal lavoro, dalla predisposizione anche, perché non è detto, c'è gente che fa lavori più pesanti di quelli che abbiamo fatto noi, e oggi come oggi stanno benissimo, che non dipende da tutto. E la mia è coxartrosi, certo, lo dici, coxartrosi, è una forte artrosi, in tutto il corpo, poi, capito? A volte d'inverno mi fanno male le dita, delle mani, dei piedi, ma vengono certi dolori allucinanti. Infatti poi avevo preso questo acido ialuronico e mi aveva fatto bene, mi aveva fatto passare i dolori alle dita, tutte queste parti qua, però più piccole, il femore non mi ha battuto, però alle altre cose, ai gomiti, dove ci sono tutte le, diciamo, le articolazioni, là. Ti prendeva alle ginocchia, ai gomiti, alle dita, delle mani, dei piedi, è un casino, guarda, un vecchio bug. Scusa già, stavo rispondendo a WhatsApp. Lo so, è brutto. E poi se non dormi bene ti viene anche mal di testa, capito? Si aggiunge anche mal di testa oltre ad altri dolori. Poi, estraiati 5 minuti prima di pranzo, così almeno ti riposi un po' la gamba. Mi sono sdraiato e mi sono dormito, poi mi ha svegliato per mangiare, poi mi sono di nuovo ricoricato e mi sono tornato a dormire fino alle 7:30. Che ti volevo dire, io c'ho anche la spondiloartrosi, capito? E se no, ma viene da dove? L'80%, la usai, prima di attiri che cosi, mi devi una ciappa poca di cosa, per carità. E anche io c'ho l'80, quindi tu prendi la pensione. Sì. Adesso infatti con queste, come ti ho detto, con queste 3 risonanze che sto facendo, faccio l'aggravamento, ma hai compreso? Certo. L'80% minero te ne darà, no? Di pensione. Con l'80? No, guarda, 303 fino al 100% è sempre la cifra. Da 70, perché se 70, fino al 100% ti danno sempre quella lì, dal 100% solo ti aumentano. No, ma io c'ho l'80 e mi danno più di 1000 euro. Ma perché tu hai i contributi in mezzo, cosa c'entra? Non lo so se li hanno calcolati, se li devono calcolare, no, io devo fare quella di vecchiaia però, ancora. Cioè a me dal primo di agosto mi devono dare quella di vecchiaia, ancora non me l'hanno data. Sì, ma l'invalidità è uguale per tutti già, a te te la stanno dando perché ti hanno messo i contributi perché hai versato anche, capito? Una contributiva ti stanno dando anche, in mezzo. Magari 800, ma c'è la gente da anni che sta lottando per farcela aumentare, perché giustamente un invalido non può andare avanti con quella lì, è dura, cosa ti puoi fare? Io ho fatto la domanda, dovevo darla dal primo di agosto, ancora non me l'hanno data, vabbè, ma mancherà poco. Lì devi, se c'è scritto al sito dell'INPS, puoi controllare tutto lì come faccio io. Io controllo tutto lì, c'ho la cassetta personale dove mandano tutti i messaggi loro, capito? No, ma me lo mandano sul telefonino il messaggio. No, io vado al CAP e hanno detto che è in lavorazione. Sono andato, è in lavorazione, c'è scritto. Sì, ma guarda, lascia perdere il CAP. Pensa che a me mi era arrivato e non mi era arrivato ancora niente, ho detto ma che strano, me l'hanno accettata e non arrivi nulla, sono andato da un GAF, ma però ancora niente, stai tranquillo, ma tu stai tranquillo che quando arriva ti avvisiamo subito. Ma agito che strano, agito, sono andato all'INPS e agito, ma scusate, mi avete accettato l'invalidità? Sì, ma di pagamenti a controllare, sì, vuole che gliela facciamo partire da oggi? Oh, santo, meglio di babbo, di 2 mesi in ritardo, capito? Erano, fate immaginare, perché loro hanno un certo periodo per mandartela. Come gli ho detto così, loro hanno detto, la mettiamo da oggi in pagamento. Ma te immaginaci, se non andavo io, campo a cavallo, presenta un GAF. Ma ti pagano gli arretrati adesso? Sì, sì, già pagati, dal 1° settembre. Bisogna che vada davvero, stavo telefonando lì, se c'è quel numero, digita 1, se c'è quella voce guida, digita 1, se vuoi parlare con l'impiegato, se vuoi parlare con l'impiegato italiano, poi c'è francese, tedesco. Digiti 1 e ti dice la telefonata non è stata mandata. Non capisco perché. Invece io tramite il sito dell'INPS ho chiesto di chiamarmi un operatore, però devi scaricarti l'app eccetera, e vai lì e scrivi che ti chiami un operatore e ti dicono domani a tale ora ti chiamerà l'operatore. Oh, perfetti, a quell'orario ti chiamano e non sgarrano, e se ti dicono alle 9 di mattina scegli tu l'orario, ti chiamano e ti dicono buongiorno, mi dica cosa vuole, e tu gli spieghi tutto quanto, loro c'hanno il computer davanti, tanto attenti, ti viene tutto. Mi sembra strano che non mi sia arrivata ancora una lettera dove dicono che è stata approvata, siccome avevo già fatto la domanda mi hanno scritto no, praticamente rispetto dal 1° di agosto, è troppo presto, la domanda l'avevo fatta 4-5 mesi prima, l'ho fatta praticamente almeno 3 mesi prima, ho preso, l'ho fatta 3 mesi prima, l'ho fatta dopo, ho rifatto tutto, il modello dal dottore eccetera eccetera. Te ho detto, fai così come ti sto dicendo io, o vai all'INPS, ok, ma non ti conviene, oppure chiami prima l'operatore, ti fai chiamare da loro, prendi l'appuntamento, l'indomani, ti chiama loro, capito? E risolvi, in 448, a chi si esiste? A Eddie, campo a cavallo, Eddie rigonvenimi già, tira la longa, hai compreso? E in più c'è una cosa, praticamente a me spetta, come anche a te, quando ti pagano la pensione, ti spetta 2 mesi all'anno pagati come sei invalido, capito? Da quando tu c'hai l'invalidità devono pagare 2 mesi all'anno. Sì, ma di cosa 2 mesi all'anno? Cos'è? È così. Praticamente se io devo fare quella di vecchiaia, no? E mi devono pagare 2 mesi all'anno, mi devono dare un tanto, un stipendio, 2 stipendi all'anno, praticamente è quello che prende Bugno. Ma tipo 13esima uscita. Sono mediani, e da me sono mediani, capito? Solo che mi hanno detto, chi ne sa queste cose, che loro ci giostrano molto, cercano sempre di farla franca, se tu non gli dici nulla, non fai la domandina, loro non te ne pagano. Sempre di nascere, sempre difende di nascere. Sì, claro, avvicina cosa pensi. Ma con la SS3 non funziona così, informati meglio, un attimo rispondo al telefono. Ma non funziona così, storia. Informato sono io, Claudio, non ti preoccupare, io vado al capo, quindi più informato di Gucci, loro ne sanno, c'hanno il contatto con l'Ips e tutto. Allora, già, te l'ho detto, io era, allora, da maggio, ok, da maggio, è passato giugno, ho detto che è strano, vabbè, forse, mi ha detto, vedrà che prima di agosto, primo di agosto, chi si rugasse, vedrà che il primo di agosto ce l'avrà. È passato buro agosto, capito? Allora sono andato all'Inps, anzi, mi aveva preso contento al telefono, no? Cioè, mi ha detto l'operatore, le va bene se le facciamo partire da oggi? A me, cioè, sei tu che lo dici a me, e sei 2 mesi di ritardo, ma mi sembri andando in giro o cosa? Infatti da tale giorno al 1° settembre era tutto pronto, cioè, ma ti rendi conto? Se non andavo io, la gente ha rubato. Sono ridranghi certe cose, se non conosci qualcuno io. Scusate, non sono stato solo a salutarci, stavo dicendo Gianni che con la SS3 come hai fatto tu, come mi hai fatto l'eccetera, non funziona così. Informatevi bene. Un po' di cazzate, sia il sindacato che un gaff, capito? Quindi, vabbè, ognuno saprà i gatti suoi, io già non ho questi problemi. Cazzo, se riesci, passata di Brenda lui oggi, mamma mia, cazzo, ci ho avuto un bumbuglione nelle gambe, anche un livido ci ho cazzo, con quella cazzo di ghiaia. E già non so che cosa hai un burro, non ti preoccupare. Cazzo allucinante, ma perché l'avrà fatta così, non ho capito. Beh, andrà meglio di tracimento, scatto la fai a ghiaia. Ma bagaccia di colpi mi sta guardando, mi sono fatto ricciò poco fa, se ho detto a bumbuglione, cazzo, già le sentivo le pietre che saltavano, ma che non avessero fatto le gambe in queste condizioni, cazzo di erba. Ma perché con la mano l'hai usato? Io mi ho portato tutta l'attrezzatura mia, già. Se non cammina quello là, c'è la cinghia rotta. Se lo sapevo avrei portato il rasaerba, io che si livella, capito? Si solleva la lama sotto e si abbassa. L'avrei sollevata di un'attacca e non l'avrebbe toccata la ghiaia. Ma quello là, quello che c'è la cinghia rotta è veramente comodo, solo che se è troppo alta prima la devi abbassare con quella mano e poi passarci con quello, capito? Già lo so, va avanti già. E come mai c'è queste gambe così, io qua? Sto tagliando erba la volta, nella ghiaia, capito? No, ho fatto col mio rubrino. Ci ho messo certo alle 8 e mezzo, ho finito alle 11 e mezzo. Oh, cazzo, m'ho fatto un bel, faccio un bel, ghiaia, porca miseria, madre. Vabbè. Dai che io devo andare, sta rientrando mia figlia 2 giorni all'albero, mi ha già telefonato che la famiglia, adesso preparo la cena, faccio una bella pasta al vongolo e poi mi sdraio perché ho capito, mamma mia come sto. Pappagatto. Avanti. Tu c'hai la SS3, vero già? Sì, ho presentato la SS3. Dai, come mio fratello. Va bene, formati bene però. Va bene, però me la portare c'è la chiacchia. Poi mettiamo appuntamento all'Inps. E poi mi dice avete ragione. Perché ancora non l'hai fatta tu quella diciamo la contributiva ancora non l'hai fatta tu. Sì, ho fatto la domanda, mi devono pagare dal 1° di agosto e ancora non mi hanno pagato. Sono andato al CAF e mi hanno detto ok in lavorazione. Sì, vai al CAF, vai. Il CAF ti ha detto quanto ti danno. Vai all'Inps con quello che ti ha detto il CAF, con conti che ti ha fatto il CAF quanto prendi di pensione più accumulo invalidità. E poi mi dici cazzo, avevi ragione. Una delusione ha preso mio fratello, cazzo, 41 anni di contributi che non viene bene a dire. Capite? C'è la pensione invalidità, mio fratello non c'ha l'80, mio fratello c'ha il 100%. Capite? Che giù male ammazzami. C'ha tolto lo storto dall'incidente che l'aveva preso in pieno con la moto, lo Scolabus, quello che vende dischi, Rosario, in via Malari. Quindi è vivo per me, acqua e tutto va ridotto. C'è il diabete e altre cose. Una illusione totale, ma totale barone. Quindi formati bene. Prendi appuntamento all'Inps e non andare a UGAF. Quindi siete solo guglionati. Ma infatti devo andare, stavo cercando di telefonare ma non mi fa telefonare, perché c'è la voce guida prima in italiano, poi in francese, poi in inglese, poi in spagnolo, eccetera eccetera, e dice per parlare in italiano prema 1, premi 1 e ti dice la telefonata non è stata inviata, boh. Non si capisce, l'ho provato a fare 2 o 3 volte e non riesco. Vedo, non lo so, però fallo, te lo sto dando come consiglio, perché a mio fratello l'hanno letto un sacco di cose avanti. E anche lui poi quando ha ricevuto la prima tranche della pensione, ha telefonato e c'era un conto. Quella c'ho pensione, la mia pensione, che ha tempo 40 anni, no, dipendente regionale, è una società privata, mio fratello dipendente regionale, fa paura, ti dico solo che prendo più io che lui, cioè lui tra pensione e accumulo, prendo più io di pensione, fate un conto. Anch'io ero regionale, poi sono passato a convenzione regionale con Acciona, ma prendo più io di lui, fatto un conto di una bilanda a Balburu, perché quando fai l'SS3 fanno un accumulo, capito? Iniziano a scalare, e la viriga non ti tocca un cazzo. Miserabili bastardi. Ragazzi, un abbraccio, vi saluto, vado a prepararmi la cena, sono caduti non si mangia. Ciao ciao. Tu, ti ho mandato un audio. Ascoltatelo e fammi sapere, ok? Dai, ciao a tutti, riprendi Luca. Ciao, buona cena. Vabbè Luca, chi è? Avanti. Ehi, mi ero spostato. E mi ne gioco a bizzardo. E mi ne gioco a bizzardo. Bene, sta andando già. Ma a pescare non stai andando? Da poco iniziano le seppioline. Ehi, come c'è freddo. Le seppie, i calamari. Ehi, ma a pesce non ci stai andando? No. Ad esempio la surf casting, diciamo così. Ma dalla riva vai, o vai in qualche altura, qualche mare di fuori, roba del genere? Mare di fuori, da riva. Secondo me la pesca poco praticata qua in zona, capito? Ma la gente se non lo sa, se non prova, capito? Ma ve ne è un bel. Ma bisogna sapere i posti dove ci sono. Io avevo scoperto una a Porto Torres, praticamente le mettevo sempre dentro la busta con barata dei pure simili. E poi deve essere qualcuno è caduto e cosa, lasciate il meno di sempre, il giorno dopo c'era tutto quanto pieno pescando simili. Ah, ragazzi, sì. Ah, lì a Punta Bianca, viso puro, non il bilivio, no, bisogna andare assai lontano. Lanci lunghi fai. Già, con la canna da rigging 30 metri, 40 metri, non è che fai chissà quanto, a volte te li trovi sotto, lancia a 20 metri e poi te la trovi a 2 metri, lo sai come la seppia, no? Sì, no, ma io uso non quello piombato, l'artificiale, uso quello senza piombo e ci metto un piombino da 20 sotto, con forse un paio di centimetri di lenza, di modo che il piombo rimane giù mezzo metro di lenza, il piombo rimane giù e a galla rimane il coso artificiale, e poi praticamente già lo sai come si fa, stai sempre girando pulirello piano piano, intanto dello strappo è più piccolo. E dove andavo io ne avevo preso una volta 12, qui Claudio già lo sa perché anche se aveva portato via anche quelle per farsi un rischio. No, io usavo le plombate, quelle faccio fare i saltelli, capito? Poi recupero piano piano, appena lancio che arriva sul fondo faccio fare 2 o 3 saltelli e poi recupero piano piano, niente di che. Niente di difficile, poi cambia, sai cos'è, molto il colore. Quello ne ho tante diverse, di colori, capito? Perché cambia, sembra così, ma a volte non ne bigli una e ne bigli un begullaccio. Ma il colore vuol dire tanto. E con le fucsia io uso fucsia e neri. E già sono buoni, quelli lì, già sempre appesi con quelli lì. ma sai cosa c'è? Non si piace una cosa che come vai a tirarla ti scappa, si gonfia e parte a razzo. Io lì dove andavo a pescare mi portavo il coppo, lo mettevo sotto e poi la salivo col coppo. Ma è difficile a me che si sgancino, difficile, come sento che la trazione, gli do il colpo in modo che gli entrano bene gli ardiglioni, difficilmente che la perdo, capito? Fino alla spiaggia la porto. Cappa, una bella pesca, non so se ne stanno già prendendo, ma non credo, poi ancora c'è gente nelle spiagge, capito? Io avevo preso una cannetta piccolina con un mulinello piccolo apposta per pescare calamari e sitti. E però sempre sitti ho preso, calamari non ha giubabigliato, dove andavo io. Ma hai visto quello che ti ho mandato io? Quella lì da aging, attenzione, non confondere con quella da spinning, che sembrano uguali, ma non lo sono, capito? Perché sono due pesche completamente diverse. Vabbè, io faccio quella lì, te l'ho detto come pesco io. Ho comprato una cannetta piccola, arancio, con questo piombino che sarà a mezzo metro dall'artificiale. E sto sempre recuperando, piano piano ogni tanto gli do uno strappettino, tic, è come vedono il pesce muoversi, l'artificiale muoversi, loro si buttano perché sono predatori. Sì, dipende poi quando sono in accoppiamento, tutte quelle cose lì. Però serve una canna sensibile, sono fatte apposta questo daging, perché a volte lei si appoggia e non, capito, è quello che devi sentire di stare attento. Quando lei si appoggia devi sapere se è il momento di ferrare oppure no. Ecco perché esistono queste cannette qua, perché sono molto sensibili, capito? E già senti pesante. Io una volta ne ho preso due insieme addirittura, che sono a canna, due insieme, e le ho coppate tutti e due, perché andavo al molo a prendere, ti dico la verità. C'avevo un punto dove tu buttavi sotto questa roccia, c'era sabbia e roccia, e praticamente deve essere, c'era la tana lì, avevo trovato il punto giusto, e ogni volta che andavo le prendevo, una volta ne ho preso 12, poi qualche volta ne ho preso 3, 4, 5, dipende, ma le ho sempre presi lì. Poi da quando c'era quello di seppia, che è caduta la seppia in terra, si è staccata e mi è caduta in terra. Al giorno che hanno visto l'ero di seppia, quello lì è stato quello che ha fatto arrivare a tutti. Cazzo, sono arrivato convinto di pescare e ho trovato tutto pieno. Cazzo, i meccanici. E da tanto qua che le prendono, capito? Quando due settimane fa c'era... due settimane fa era piena la spiaggia lì a Punta Bianca. Ti rendi conto, a un certo punto viene questo tipo con la sacca piena di canne, ha visto che c'era tutta la gente, però intanto si è piazzato, si stava preparando, ed erano le 7 di sera mi sembra, c'era ancora la spiaggia piena, capito? Il mare era piatto. Ma di notte non le prendi solitamente di sera, dai, all'imbrunito. Sì, è culo, a volte le prendi tutta la notte, a volte le prendi solo la mattina presto, vale a capire tu già, vale a capire, sai che tu non ci sei più andato, per vinto tutto così. No, c'ho tutte le canne ferme, mi fa male anche a vederle, c'ho mulinelli, canne, porta cane, di tutto e di più, un borsone enorme, tutto pieno di attrezzatura. Cosa vado, non ce la faccio a stare lì con questa gamba che mi fa male, ma perché c'ho anche sempre la sedietta, c'ho una sedietta, ma non di quelle da pesca, non c'ho una sedia di plastica, di quelle pieghevoli, con il cuscino, ci sto molto comodo, mi metto davanti alle canne, io di modo che le vedo tutte e tre, e sono appunto, poi non ho fatto più il rinnovo, capito, non ho più rinnovato col permesso. Sì che non c'è proprio... non te ne aveva né gana di andare. La voglia già ce l'ho, cazzo se ce l'ho, però ho paura che mi faccia male, perché la notte prendendo freddo già mi faccio di dolore, mi aumentano il dubbio. Ma di notte no, ti conviene, a me in questo periodo gli sta bene ancora, poi io d'ora la mattina, verso le 5, così, le 6, inizia, capito, a fare luce, e arriva l'ultimo di Nandi, perché gli viaggia. E tanto per le seppie ne ho una solo di canna, c'è cioè una canna appositamente per loro, è caricata per le seppie tutto tanto, e per con quella, la canetta cannosa la chiamo io, perché le ho sempre prese. Però poi e una volta è venuto anche Claudio con lui, è sceso a vederci pescare. Al posto mio, ne l'ho detto io, siamo andati insieme, cazzo, l'ha preso pure lui, una bella di muro, una mezza mano. Intanto ci vuole, capito, di spendere i soldi in esca, chi do l'altro. A me, guarda, mi è passata la voglia di surfcasting. Già, mi stanno chiamando, mi assento. Io. Ah, gna gna. Fatto hai? Io. Capito già. Poi la maggior parte io le compro direttamente su AliExpress, sono ottime le bagaglie, capito, le tocanare. Va bene, e cosa ci vuoi fare? E poi mai preso ne hai con la tocanare? No, no, ma ho iniziato quest'anno, non è che, capito, ho iniziato quest'anno. Seguo molti forum, molti su YouTube, capito? E c'è anche, non so se sei iscritto, Regging Sardegna su Facebook. Poi io una volta di notte stavo cercando gambiriti per pescare, perché ho finito l'esca, e lì a Porto Torres di notte si vedono gli occhi dei gambiriti a fianco al muro, non so se li hai mai visti. Prendevo i gambiriti e pescavo con quelli. Ho messo la luce che se vedo questa seppia enorme, grande, e più puntavo la luce più saliva verso su, verso la luce. Io le ho messo il cocco sotto come le salita su, ho preso il cocco, le ho messo sotto, non ho fatto per mettere il cocco sotto la giubiliata. E poi si fanno, ci sono belle grandi. Diciamo che è meglio secondo me è il meglio del surfcasting, secondo me. Non ti rompi di nine esca, non stai ori senza cappuccio, senza biglia nuda, lì ti muovi, capito? Almeno lì ti muovi, passeggi, se non sei in quel punto ti sposti 10 metri più avanti. È bella perché varia, capito? Già, a me piace il surfcasting, sì, mi piaceva, ma soprattutto dagli scogli, non dalla sabbia. Lo so. Ma negli scogli non è che puoi passeggiare molto, Io lì al molo di notte, di sera a tardi, di sera a sera, pescavo sempre, me lo ricordo, lì al passetto, all'acqua, li ho sempre presi, però adesso non so come sia, perché hanno tutto quanto rifatto tutto a nuovo, hanno fatto il molo diverso, hanno sconciato tutte le tare che c'erano, capito, perché hanno buttato i sassi, quei dieci bagaggi mani per fare il molo sotto, insomma adesso ha cambiato tutto. Lo so. E a Porto Torres dove hanno messo appunto quelle cose, non ci sei ancora andato, dove c'è il ristorante lì, hai visto che hanno fatto quella barriera? Con i frangiflutti, non so, non ci sei andato a lanciare da lì? No, lì lui io c'ho paura, se gira il mare ti crepa, se lì gira il mare ti guida in pieno, no, non ci sono mai andato. Poi mia sorella mi stava dicendo, l'altro giorno stavano passeggiando lì, dice che verso le 7 era tutto pieno di tupi, si vedevano i tupi correndo da una parte all'altra, pieno. Pericoloso è così, no. E a Platamona, io quando vado a Platamona di notte mi metto un nylon grande, no? Che è quello che si usa per coprire l'acqua, le pedane dell'acqua, ce ne presenti. Mi metto un coltello grande e poi appoggio tutta la roba proprio per non rovinare i mulinetti, eccetera, eccetera. E sentivo questo rumore, clicchi, che cacchio, non ha pescato nulla ancora, mi giro per un sarrone di Vogna, che stava cercando di mangiare i verbi, capito? Tutti quelli che è mosso. Oh, l'ho lanciato il portacanna, c'era un portacanna libero, cazzo, ci vuole dove gli cute se ne fuggì. Comunque, anche quel posto dove andavo io era bello, cazzo, lì dove c'era la chiesa, la prima salita. prima chiesa lì a Balai, Puglia, dallo strappio a Moranciago. Ui, quanti saragoni che ne salivi, facevi una fatica enorme, perché dallo strappio a salirmi lì era pesante, anche se la canna era grossa, ma il mulinello che non ce la faceva. Ma la soddisfazione è già due ore pescavi a morte, non facevi in tempo a lanciare e a serirti, cazzo, che stava già strappando. Ui, che divertimento lì. E lo so, va a salirli lì, quando te ne sono caduti. Un bene perdi, però un bene porti a casa. È un bene porti a casa, caspita, ma poi non c'è bisogno neanche di lanciare tanto lontano. Addirittura molti pescavano a galleggiante, mettevano la starlight, capito? A galleggiante, col bigattino, si facevano una beffa lo stesso. Poi adesso non so se si pesca ancora lì, perché poi stavano prendendo, ci stavano andando i gozzetti, no, lì sotto, cazzo, miserabili. Ma anche quando c'eravamo noi a pescare, lì vedevi loro passavano tu, sotto, ma tutto romano gli vè, ma chi notte andando a Santo Bastiano a pescare? Lo so. Invece andavo nell'altra chiesa, quella di Valle Vicino, quella lì ci sono dei fari, lì peschi i calamari, capito? Di notte peschi i calamari. E vanno sombe di gente. Sì, no, là oltre che al buio, perché hai visto, poi parcheggiavo nella chiesa con tutta l'attrezzatura, poi dovevo scendere giù, avevano fatto, non so se avevi notato, gli scalini nella terra stesso, nella terra, no? E dovevi stare anche attento, soprattutto se aveva fatto umidità o pioggia, dovevi scendere lì, poi dovevi fare altre un centinaio di metri e arrivare fino alla cosa, alla sopra la roccia. E faticoso era, faticoso salirne lì, capito? Però c'era tanta soddisfazione, perché ripeto, non facevi in tempo a lanciare, col bimbi non facevi in tempo a lanciare che ti piegava la canna. Che bello era. Ma no, a fondo pescavi sempre a galleggiare? No, io a fondo mettevo un amo sotto libero e un amo sopra al piombo, capito? Perché a volte li prendevo in una mano o nell'altra. E lì perché già risulta una già di furia, dai, non è acqua bassa lì. Io sono andato a fare pesca subacquea alle roccette bianche, c'era un bel po' di metri di acqua, prendevo le siepi a coppia, le vedevo, cavolo, nel fondale alto. È bello, ombrine anche, no, è un bel fondale, ma io credo che si peschi ancora lì, che si peschi bene. Ma penso di sì, specie quando c'è schiuma, che c'è un po' di mare mosso. Lo sto dicendo, pescavano addirittura col galleggiante, mettevano la starlight e pescavano così, perché è a pieno di pesci. Però io nella roccia c'ho paura, dalla volta che è successo quell'affare per mio amico, cazzo, siamo andati, dovevamo andare dopo Castintino, dopo la Pelosa, lì ci sono delle rocce. Stavamo andando a Stintino e a Pozzo San Nicola ci hanno fermato i carabinieri. Questo qui ci ha puntato il mitra. Me lo può spostare il mitra dalla faccia, che ti può partire qualche colpo e mi ammazza. Io non so chi siete, scendete dalla macchina, aprite il cofano di dietro, prendo, cazzo, gli apro il cofano, ha visto le canne, tutto quanto, filaccioni. E dobbiamo andare a Grunghi e cose. Fatto sta che poi abbiamo fatto amicizia, stava passando una pattuglia di carabinieri che stava camminando, ferma questo, che si erano fermati i carabinieri, e il collega ha detto, poi dice non c'hanno ragione che ci fanno le barzellette, ha fermato il collega, cazzo, ha visto la macchina da lontano, non l'ha riconosciuta. Fatto sta che facciamo amicizia, lui è... passiamo a trovare, e gliel'abbiamo detto, manco Mari, cazzo, mettiamo i filaccioli per barattoli, l'amico mio si è spostato verso destra e verso sinistra, ed è tanto bene, ci vediamo dopo, dai, mettiamo i filaccioli con i barattoli attaccati, sai come si fa, no? Ah, si sente bla bla bla bla bla bla il barattolo, qui, Antonè, cazzo, il grongo, cazzo non rispondeva, cazzo punto la pila, cazzo lo vedo giosso, a capo in Eva, ha fatto tutta quanta la rosolata sulle luci e poi è caduta a testa in acqua, cazzo sono sceso correndo, cazzo si scivolava, c'era un bel di merda, e poi poi in quel momento lì sono arrivati i carabinieri, ho detto ragazzi ci siete, e io aiuto, aiuto, cazzo sono scesi giù, ci mi hanno dato una mano, cazzo abbiamo portato su tutto quanto cribbato, cazzo, ci ha fratturato la scapola, oh dal giorno, ha fatto così così a non morire, perché era svenuto, se cadeva in acqua, svenuto sarebbe morto. Eh sì, caspita. No, è pieno, anche pieno di grunghi tutta questa zona, solo che non sono tutti che vanno a pescarli lì. Però è bello, caspita, quando si attorciglia, poi E io già ne ho pescato, io non so dove è andato. È presente dove c'è quel cantiere navale verso, per entrare, cioè tu entri nel mondo industriale, invece di andare dritto svolti a destra e c'è un cantiere navale, oltre quel cantiere navale poi c'è il molo che va in punta proprio a mare di fuori. E lì i grunghi li abbiamo preso anche pagilli, belli, un bel di roba. Una volta non stavo pescando nulla, cazzo, non sai cosa c'era, c'era la rete da una parte all'altra del molo, tiriamo sulla rete, abbiamo fatto pesca miracolosa. Avete fatto bene già. Oh già, ti devo lasciare che mi stanno chiamando. Vedete, campane di Santa Maria. Beh, ci sentiamo domani già. Ehi, ciao, ci sentiamo, buona carica, ciao.